buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Siamo rientrati finalmente dopo ormai un mese e mezzo circa in diretta radiofonica e dunque subito 451 frammenti sonori. Speriamo di non avere qualche problemino tecnico, dato che ormai siamo veramente dentro un altro luogo, un altro spazio, potremmo dire anche un altro tempo, ma intanto un saluto da Max Macchia e da Eliseo Scarpa, chiaramente. E dunque siamo rientrati. Prima c'è stata la bufera continua di neve, c'erano ovviamente orsi polari e vari animali, e poi è arrivato quelli che ti hanno fatto venire la rocedine. No, la rocedine mi è arrivata per qualcos'altro. Sì, ma se continui così, tra due mesi diventerai Sandro Ciotti, il nuovo Sandro Ciotti. Beh, Sandro Ciotti aveva una voce molto molto bella dal punto di vista radiofonico. Piaceva alle donne, no? Ma non è tanto per quello, è che proprio era bella da sentire in radio. Insomma, poi io da bambino mi ascoltavo sempre come si chiamava, minuto per minuto, calcio minuto per minuto, era un punto di riferimento. Da lì ho cercato di avere sempre di più la voce più rauca e forse tra qualche anno ci riuscirò completamente e diventerò il nuovo Sandro Ciotti. Beh, come sei stato? Sei stato rinchiuso? Cosa hai fatto? Con i polarsi polari hai giocato? Ho giocato a casa, sì, cercavo di tirare delle palle di neve nei confronti di passanti, cercavo anche di lanciare delle stalattiti a qualche autorità cittadina, se c'era, ma non ne ho vista. Non è riuscito la cosa. Io ti sposto la barra. Beh, sì, dobbiamo un po' ambientarci. Comunque, diciamo agli ascoltatori, 451 frammenti sonori rientra dopo molto tempo. Dopo le tempeste di neve ci sono state le tempeste del trasloco, e dunque Radio Città del Capo, ma molti ascoltatori sicuramente, quelli che sono quasi costantemente in collegamento, avranno già avuto molte notizie rispetto alla modifica della nuova sede della radio, e dunque siamo ormai in pieno centro, siamo ritornati forse in centro dopo molti anni, e ovviamente stasera abbiamo voluto un po' giocare con questo rientro, con questo cambiamento logistico della radio, costruendo una trasmissione che gioca un po' su una contraddizione, nel senso che l'abbiamo definita No Ambient, anche per ricordare una vecchia trasmissione che giocava proprio Jazz No Jazz, in un'ottica ovviamente anche insomma giocando un po' col termine e cercando di costruire un percorso sonoro legato a musiche che attraversano ma si distanziano anche dallo stesso ambient a cui facciamo riferimento. Dunque, da droni a rumorismi a dimensioni cosmiche spaziali e anche altre atmosfere che possono agganciarsi molto bene rispetto alle puntate, ad esempio, che abbiamo costruito tra la fine del 2011 e inizio 2012, basate proprio sul suoni suburbani, su atmosfere che anche stasera ritorneranno per certi versi e si ricollegheranno a quel tipo di trasmissione. Sì, è proprio un gioco appunto tra ambient e non ambient, un po' anche prendendo di mira come obiettivo, anche se vogliamo virtuale, ma non solo, visto che poi lo trattiamo piuttosto spesso, quel no che ci ricorda la No Wave sì. Appunto quello storico disco prodotto da Brian Eno. Quindi anche in questo caso un gioco un po' al massacro che conduceva appunto il grande musicista inglese, o non musicista inglese, proprio su una musica che era completamente aliena, così formalmente, poi in realtà da faccende estreme come l'interessava, soprattutto insomma certe derive rumoriste che comunque dentro anche le musiche ambientali ci sono, quindi di conseguenza come dire, portare poi queste fuori dalla struttura ambient e cosa insomma di magistrale portata, ma anche insomma di gioco piuttosto creativo che stanno creando nuovi adepti all'ambient, al non ambient e forse insomma al neocosmico, molti lo considerano così. Proprio partendo da uno di questi personaggi, progetto di Sun Arrow, Ancient Romance, copertina che ricorda un po' le vecchie enciclopedie scolastiche. Beh, hai fatto un omaggio anche alla mia passione, no? Certo, diciamo. No, anche se sei più etrusco tu. No, più, ma anche greco, no? Sì, anche romani no, i greci, che assomigliano anche a te per certi versi. Beh, sono bello greci. Come un greco, infatti. Sì, bravo. Grazie, grazie. E, anzi, Romance, appunto il disco di Sanaro, una delle perle del 2011, si muove veramente tra situazioni anche molto disperate, disparate, nel senso che recuperando l'irrecuperabile, una certa antichità reinventata attraverso le strumentazioni decostruite, un'elettronica molto metafisica, si arriva appunto a costruire questa sorta di astrazione globale dell'intero disco di Ancient Romance, che prevede anche ritmicità, ambient, e quegli spostamenti appunto che interessano questa sera, verso il no ambient, verso quell'extra che questa sera appunto è un po' il collante di tutta 451 frammenti sonori. Ci andiamo a ascoltare quindi Sanaro. da posizioni quasi rumoriste iniziali di Sun Arrow, ci siamo spostati verso poi quel lido anche battuto da altri americani, che è quello di una sorta di viaggio alla ricerca di un suono anni 70, chiaramente reinventato, ricreato di fatto, che è un suono che si ciba tanto di ambient quanto di quegli umori in molto cosmici. E Sun Arrow, tra l'altro, utilizzando anche strumentazioni simili acustiche, cerca anche di rievocare uno strano panorama, un folk quasi marziano, si potrebbe dire, e quindi in questo senso qua anche il riferimento ai romani, all'antichità, da quello che è appunto il percorso di questa progettualità di Sun Arrow, rimanendo sempre in America appunto con queste progettualità che si stanno muovendo sempre più verso un ambiance cosmic, tipo cosmice, e andiamo a trovare grossi personaggi del giro. Sì, parliamo di T-Maker che abbiamo già inserito in una puntata scorsa di 451 frammenti sonori, musicista canadese nato a Vancouver, tutto sommato è quasi coetaneo nostro, non vi diciamo infatti quando è nato, così non saprete mai quando siamo nati noi. Musicista, sì, però non appunto non credo che ne freghi niente a nessuno, comunque sì. Insomma, si mantiene una certa privacy, un certo mistero, dai. Mistero, sì, mistero. Le voci nell'etere, poi uno può sempre collegarle a una determinata età. Vabbè, un viaggio mio, ok. Produttore di Montreal, appunto, T-Maker, ha iniziato con Jeton, progetto abbastanza importante della fine degli anni 90, per poi spostarsi verso una dimensione che molti hanno definito ambientale, ma che in realtà esce molto dalla definizione appunto ambientale, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi dischi ha lavorato introducendo dei rumori o comunque delle sonorità molto orticanti, molto graffianti, spigolose, assolutamente non rassicuranti. Ci sono degli echi indubbiamente nelle sue costruzioni, nei suoi tappeti elettronici, che ricordano delle melodie piuttosto coinvolgenti, sicuramente molto molto belle, però mantengono sempre questa sorta di nostalgia mista anche a una certa tristezza di fondo, che però riesce ad esprimere anche attraverso appunto un rumorismo che si interseca a questo tipo di flusso ambientale, una certa rabbia, una certa ruvidità che abbiamo riscontrato anche in molti altri autori, soprattutto nella costruzione di una sonorità degli ultimi anni, che abbiamo riscontrato ad esempio attraverso percorsi legati al dub, ma anche a una sorta di post-techno che è riuscita a mischiare un po' le carte, a rappresentare forse una dimensione che noi abbiamo ad esempio utilizzato come categoria, la periferia suburbana, con tutta una serie di contraddizioni che emergono. Ecco, T-Maker entra dentro anche lui, dentro questo tipo di contesto sonoro, e l'ultimo lavoro, che è Rev Death 1972, rappresenta molto bene il suo percorso e la sua attitudine attuale, ed è un disco assolutamente splendido dall'inizio alla fine. Molti infatti lo stanno scrivendo già da appunto da quando è uscito qualche mese fa. Ce l'andiamo a sentire, è uscito appunto a fine del 2011, Rev Death 1972, T-Maker, due brani che rappresentano sicuramente il disco, il percorso di No Ambient. e siamo rientrati in diretta. Lavoro sicuramente splendido questo di T-Mac, ricordiamo ancora il disco Rave Death 1972, un lavoro veramente interessante. Oltretutto vi consiglio, se avrete modo di poter arrivare a questo altro lavoro che è appena uscito, Dropped Piano, un altro lavoro che si distanzia per certi versi dalle atmosfere di stasera di No Ambient, ma merita sicuramente di essere altrettanto ascoltato e seguito. Un autore che veramente mantiene un livello molto molto alto in questi ultimi 4-5 dischi che sono usciti tra il 2007 e il 2011, e dunque un personaggio che sicuramente continueremo a seguire come 451 frammenti sonori per la capacità appunto di aprirsi a livello sonoro a moltissime influenze, ed è praticamente stato anche un po' il là per l'idea di No Ambient, per la sua miscela sonora che rappresenta bene questo collegamento, ma anche quella sua emancipazione dall'universo ambient, seppur il riferimento sonoro è chiaro. E da T-Maker andiamo e ci spostiamo verso una formazione particolare che vede la presenza di grandi autori e musicisti insieme per un progetto. Sì, prima parlavamo di americani, in effetti T-Maker è americano ma canadese, magari si arrabbia anche a definirlo tale, visto che i canadesi insomma hanno sempre questa come dire, questo senso di inferiorità rispetto agli statunitensi. Vabbè, questioni insomma che ci riguardano relativamente. Potremmo aprire un capitolo, ma sì, se ci vuol chiamare qualche canadese qua, appunto, se mi che sta a Bologna, così ci dice cosa ne pensa. Magari sono anche dei luoghi comuni, delle gran stronzate. Quindi dal Canada agli Stati Uniti, con una grande continuità, perché qua c'è appunto un gran senso di cosmo, di ambientazione, ma anche di quella melodia che prima appunto descriveva Eliseo in T-Maker, che dà quella sonorità malinconica, quella tonalità triste ma poetica, quindi malinconica, e questo anche il senso piuttosto profondo del muoversi dentro il suono, quasi appunto a creare delle emozioni forti, o perlomeno a cercare di smuovere insomma quel sentimento tra virgolette, quell'emotività portata appunto dal suono allusivo sia di T-Maker sia di Borden, Ferraro, Godin, Alo e Lopatin, che sembrano una squadra, non so, di basket, forse. Perché sono in cinque, eh? Sì. Giusto. Borden viene proprio come grande maestro, visto che apparteneva a Modern Mallard, quindi maestri nel mischiare minimalismo, avanguardia, cosmice, elettronica anni 70, anche con quella grande comunicatività che avevano effettivamente i grandi americani, appunto Modern Mallard. Ricordiamo bene, abbiamo passato più di una volta con molto piacere e volentieri appunto la storica formazione. Ferraro viene dagli Skaters, adesso insomma da un po' di tempo fa musicalità molto vicine così a una sorta di new age, no age, così se facciamo questo giochino di parole questa sera col no. Godin, personaggio che insomma si muove da un po' di tempo dentro le elettroniche americane, e Loren Alo, che troveremo tra l'altro nella seconda parte ed è uno insomma dei protagonisti del nuovo suono americano elettronico, e Lopatin, che è il celebratissimo Onetrix Point Never. Ci andiamo a sentire appunto in questo progetto, un viaggio veramente molto bello, molto interessante. Thank you. E adesso, dopo questo splendido lavoro, ricordiamo ancora Firkins volume 7, ha un nome un po' complicato da pronunciare, sì, per noi italiani forse, FRKWYS volume 7 2011, splendido lavoro, veramente avrete sentito questo viaggio molto legato anche alle dimensioni cosmiche di Borden, Ferraro, Godin, Halo e Lopatin. E adesso velocissimamente, perché il tempo come al solito c'è tiranno, soprattutto oggi che siamo rientrati dopo parecchio tempo e siamo ancora un po' arrugginiti, anche perché la saletta, regia e le cose tecniche sono cambiate, per cui è andata anche tutto sommato bene per adesso. E andiamo, non è esploso ancora. Non è esploso ancora, non ci siamo ancora bloccati, dunque va bene. Adesso presentiamo il prossimo autore velocissimamente, rientreremo dopo il GR di Radio Popolare Network per raccontare qualcosa in più di quest'autore. Si tratta di Aidan Baker, rientriamo dalla porta di servizio di nuovo in Canada dopo aver ascoltato T-Maker, anche lui autore musicista canadese, e andiamoci a ascoltare l'album Life Forms del 2010 e poi rientreremo per darvi maggiori dettagli. Buon ascolto e a dopo.